piace non ci sono più. In quel locale non ci suono più. Sopra quel tetto non ci dormo più. Sono maledetto e non ne posso più. Non mi dispiace questo hotel, ma io ricordo della stanza mia. Ma io ricordo della fascia mia. Ma io ricordo di quando ero io. Io sono stronzo quando voglio. E ora voglio di essere il posto, non ho bisogno, yeah. Sono il messia. Se questo mondo fosse a posto, avrei la vita per buttarla via. Ma mi ho fatto tanti errori. Sì, ma fra questi non c'è l'odio per lo Stato oppure per la polizia. Non mi dispiace, non ci sono più. Yeah. E mi dispiace che tu sia scomparso. Se ti sei già fatto un'altra vita, forse io solo ho fatto un'altra can. Vorrei che i miei giorni durassero 48 ore, perché non mi basta più la metà. Mamma, stai tranquilla, sto mettendo tutto a posto. Penso a come vivevo sì fino a pochi mesi fa. E allora no. Dammi 8 vite come un gatto, ne ho 7 ma le ho quasi finite. Mi sento in trappola, chiamami Trap King o non chiamarmi Sfere Basta. Lo ami o lo odi, non puoi ignorarmi. E da bambino il naso appiccicato a quella vetrina e quella roba sì, troppo costosa, troppo esclusiva. E non volevo nemmeno provarla, non la compravo. Dicevo che ripassavo, ma non sono ripassato mai. Mi vedi adesso che il bicchiere è pieno. Pensi che tutto questo mi ha dato alla testa e vorresti soltanto rivedermi a zero, come quando entra la pula e interrompe la festa. Mi dispiace, non ci sono più, yeah. E mi dispiace che tu sia scomparso. Se ti sei già fatto un'altra vita, forse io solo ho fatto un'altra can. Vorrei che i miei giorni durassero 48 ore, perché non mi basta più la metà. Mamma, stai tranquilla, sto mettendo tutto a posto. Penso a come vivevo sì fino a pochi mesi fa. E allora no. E allora no. Del